Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Io sono ancora qua. Io sono ancora qua. In questi due anni abbiamo strappato da questa città il cancro di Parentopoli, da quelle persone che su queste stesse si sono presentati con il saluto romano. Tu sai, ci vuole fantasia. Qualcuno vorrebbe fermare adesso questo percorso, adesso che la città può ripartire. La vita che vuoi tu. Ci penso e non vi deluderò, non vi deluderò. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Siamo entrati nel giorno 5 dell'era della resistenza mariniana. Ebbene sì, la resistenza mariniana continua. Ieri ha chiamato proprio a raccolta i suoi sostenitori in Campidoglio, Ignazio Marino, che dice: non vi deluderò. E cita anche il Che, cita Che Guevara Ignazio Marino. Cos'è che dice? Noi siamo realisti, vogliamo l'impossibile. Che Guevara, Marino, resiste, non vi deluderò. Che ha in mente? Io l'ho detto da giorni, spero che resista per vedere l'effetto che fa. Bello, bella questa battaglia. Secondo me potrebbe piacere anche a un Maria Di Nolfi questa battaglia politica, non lo so, potrebbe piacere anche a lui. Ma come si eccala, ma eccala. Come io te l'ho detto in un'altra puntata, quando voi facevate tutti i minimizzatori sulla storia degli scontrini, con gli scontrini non puoi fare il sindaco, non lo fai in nessuna città. Ma sti scontrini. Non puoi andare a cena e dire sono andato con la comunità di Sant'Egidio e poi la comunità di Sant'Egidio dice ma quando mai? T'ha toccato la comunità di Sant'Egidio. Intanto un uomo che sta ancora a meno uno. Meno uno. Un uomo che sta a meno uno. Ero a San Siro con mio figlio Mattia. E ho portato mio figlio per la seconda volta. E per la seconda volta abbiamo vinto 2-1 con gol di Bacca e Luis Adriano. Tutte e due le partite. Che bella scena di amore familiare. Vabbè. Il bambino come era contento. Va fantastico. Gli ho comprato la maglia di Carlos Bacca. Ma ti rendi conto? Va bene, sono le 6:32 minuti. Come capite, c'è Mariona Di Nolfi che è a meno uno, è in negativo. Sto pari col Chievo. No, vabbè, ho capito. Hai parlato del Chievo? Sto pari. Chievo va, il Chievo e Juve stanno a questo punto. Ti presento allora un uomo che vive per il Chievo, Massimo De Manzoni. Certo. Il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, tiene al Chievo. La conosco finalmente uno, è meravigliosa. Ma come conosco veramente uno? Ma Massimo, Ma digli ha ragione, qualcosa. Siamo in pochi. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni e soprattutto a pari della Juve. Cioè, non è che ti... soprattutto a pari della Juve. Non è che ti fa molto onore, Massimo, intendo. Ambizioni limitate, adesso non esageriamo. La Juve ha vinto gli ultimi 4 scudetti, se non vado errato. Dov'era il Milan? Il Milan, vabbè, insomma, adesso dobbiamo veramente infierire. Tra l'altro Massimo De Manzoni oggi ci porta la novità, perché sai che c'è, ma cos'è che vi siete messi in mente che c'è libero in edicola al lunedì? Ebbene sì, c'è libero in edicola. Anche al lunedì. con un numero sensazionale, da sì. Collezione, Perna scrive, Panza che intervista se stesso. Abbiamo un'esclusiva sul clan di Casamonica. Scrive persino un tale Alessandro Milan. Non ci credo. Giuro. Non ci credo. Interviste, inchieste, una roba fantastica. Non lo conosco. Un numero da collezione. Sì, ho convinto persino Alessandro Milan a esibirsi. E allora Mario, di la tua, dai, lo so che ce l'hai lì, lo so che Mario. Ma riposatevi la domenica, guarda, scrive pure Milan sui giornali. Riposatevi e santificatevi. Eccola, e andate a messa. Ecco, figurarsi se Mario Di Nolfi non doveva tirarci in ballo su questa cosa. È una cosa bella che non uscivo i giornali il lunedì, se non rare cose. Capito, ma non lo so. È così. Legge Milan, poi, capito? Questa è cosa di... No, lo sapevo Massimo che dovevamo finire così. Dovevamo finire. Mario Di Nolfi mi vuole talmente bene, lo sapevo. No, comunque dai, in edicola da oggi anche libero, cioè da oggi, nel senso, dal lunedì, ma intanto qui da oggi tutti i lunedì. Sì, io devo, e anche il martedì, anche il mercoledì, non è che fate il settimanale. Devo aprire il Parlamento nel salutare Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. Devo prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. C'è anche il ministro Boschi con noi che va a prendere un caffè, poi dopo ci vediamo più tardi. Allora, adesso, a parte gli scherzi, questa vicenda di Marino, caro Massimo, ti pare io dico, ma ripeto, vorrei così per vedere l'effetto che fa, ma sai che bello, dai, un po' di casino in consiglio comunale, dai, no? Non ti piace? Dal punto di vista di noi giornalisti, se non ci fosse Marino dovremmo inventare. Vedi. Se io fossi un cittadino romano, cosa che non sono, forse sarei meno contento. Ma... E comunque sì, è divertente vedere anche gli slogan del passato che tira fuori Marino. Da fascisti tornate nel fogno, adesso è passato al Che Guevara. Che Guevara. Impossibile. Non è male, Che Guevara. Tirare fuori Che Guevara non è male. No, tra uno scontrino non Che Guevara ci si diverte molto. Ripeto, qui dal nord, non so come ce la passino a Roma, ma Di Nolfi te lo può forse dire meglio di me. Non lo so. È una roba che non ha senso. Non lo so, come ve la passate, caro Marione, questa vicenda? Ma poi c'erano 3.000 persone, bellissima poi, 3.000 secondo i marignani, metà secondo il PD, manca la questura finora non si è pronunciata. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Ma davvero, io vogliamo farci dietro veramente dal mondo. Marino non lo sopporta nessuno in città. Nessuno. E chi sono quelli in piazza? Chi sono? La ridotta marignana? 3.000, sì, ma 3.000 che cos'è? A Roma si vince con 700.000 voti, perché non è che... Non esiste il fatto che questa cosa possa continuare. Non ha proprio nessun senso politico, se non che così Marino si costituisce una base preelettorale e proverà a ottenere una fuoriuscita da tutto questo con qualche prebenda in più. Io spero veramente che venga usato il pugno durissimo. Vuoi fare questa cosa? Spero, vai. Si va in consiglio, verrà sfiduciato, perché io credo le condizioni per questa cosa continui, e dopodiché non dategli nulla, perché uno che non prende atto politicamente di non avere una maggioranza. Ma perché? Che dovrebbero dargli? Non ho capito. Ma non lo so, ma perché puoi fare una cosa? Cioè, la finalità di un'operazione del genere, quale può essere? O è un delitto, oppure è un tentativo di incassare qualcosa, evidentemente, perché non è possibile, non ci sono le condizioni. Se tu c'hai un partito che ha 19 voti su fondamentali per la tua maggioranza, ti dice ti devi dimettere altrimenti ti sfiduciamo, che è il tuo partito da cui sei stato candidato, e non ne prendi atto. E fai rimani lì? Folle, non lo so, cioè, pare che ci sia un pressing per vedere Renzi, non lo so, ma che vuol fare? Infatti non si è capito. Renzi non lo incontri, io dico con grande franchezza. No, no, ma credo che non succederà, no, non mi sembra. Non mi sembra che Renzi sia una persona. I meccanismi di ricatto da scuola elementare, questo ricatto da scuola elementare, senza senso politico, senza intelligenza, racialtroneria, cioè veramente non venga in alcun modo accolto da nessuno. Da nessuno, lo so. Roma non rimpiange Marino. A capire, effettivamente, politicamente, Massimo De Manzoni, hai capito che vuole Marino? Cioè vuole ricandidarsi, vuole un'uscita con onore? Che vuole? Cioè, non... Ma io sono malizioso, però penso che gli manchino 2-3 anni a incassare il vitalizio da parlamentare. Perde il monumento da sindaco, attaccato ai soldi mi pare che lo sia. Cioè vuole una candidatura in Parlamento? Tra multe, scontrini, eccetera, mi sembra che appunto non sia proprio uno che non ci bada a queste cose, diciamo così. Penso che gli manchino questi 3 anni per la pensione, che stia trattando un posto, un qualcosa. Cioè, mi candidi al prossimo giro in Parlamento? No, ma anche qualche poltrona sottobosco, di boiardo di stato, di semi. Oh mannaggia, questa è maliziosa forte. Questa è maliziosa forte, questa di non neanche a Dinolfi, neanche uno come Dinolfi che porgi l'altra guancia, in realtà è malizioso forte. Dopodiché, cioè, posso dire che ci sono delle responsabilità politiche anche del PD clamorose, perché Marino già prima, insomma, fin dai primi momenti si è dimostrato molto molto inadeguato come sindaco, al di là delle cose clamorose del Papa, dei viaggi del sindaco, ma insomma come amministratore della città non è sembrato proprio sin dai primi momenti un fulmine di guerra. E la storia di Mafia Capitale è stata usata nella storia di Mafia Capitale è stata usata dal PD come una specie di foglia di fico che non è, perché ricordo che la sua campagna elettorale è stata pagata da un certo Buzzi, e però l'hanno cercato con la complicità di alcuni media di farlo passare come il paladino, l'eroe che avrebbe, senza macchia, che avrebbe ripulito Roma. E era chiaro che la campagna elettorale, diciamo, ha avuto ma in quel momento ti consegni mani e piedi appunto nelle mani di un personaggio. Ma dici la campagna elettorale ha avuto un finanziamento, forse l'ha incontrato? Metà della campagna elettorale è stata 30, almeno quella denunciata da Marino, lui ha denunciato 30.000 euro di spese, no, 60.000 euro di spese, 30.000 arrivavano da Buzzi. Metà della campagna elettorale non è che sia proprio pochissimo. E allora, ma è chiaro che finirà questa storia, però Mario addirittura vuole una poltrona di qualche tipo, non so. Sì, ma io quello intendevo quando dice, insomma, quando dico vuole contrattare l'uscita, ovviamente non significa questo, non è che vuole contrattare gli dicano bravo, vuole contrattare gli dicano qualcosa. Io spero ma che cosa? Nulla, cioè, voglio dire, nulla. Ma funziona questo impulso? Cioè, che cosa? Dove te lo vedi? Presidente di qualcosa? Ma sai che sei tifoso del Milan, ma insomma, un po' capisci del mondo, sì. Sai come funziona. No, vabbè, cioè, qui siamo agli insulti gravissimi. No. Te la vedrai con mio figlio stasera. Ti faccio chiamare da mio figlio Mattia, di sistema in 448. Mannaggia, ma ho capito, ma che cosa se può fare il sindaco di Roma? Presidente, non so. Il sindaco di Roma, e lo fai presidente della fiera sto cavolo, o tempo dell'autore di sto tivolo, è uguale, no? La fiera di sto cavolo, mi sembra che ci vuole, preciso. Quanto prende il presidente della fiera di sto cavolo? 200.000, benissimo, ottimo. Finita la cosa, cari romani. Ottimo, mi dispiace, non ci sono più le condizioni, ho provato. Ma votate PD, mi raccomando. poi. Ho provato Che Guevara, viva Che Guevara, e vabbè, e alla fiera di sto cavolo, e via, presidente. Beh, non è male, un bello spaccato di politica alle 6:42 del mattino. Funziona così, ragazzi, mica c'è Luis Adriano, cioè funziona così. Vabbè, mi sembra giusto. Allora, sentite qui l'uomo che ha sparato a Vaprio Dadda. Ieri si è presentato da Barbara D'Urso, mi hanno detto leggermente su di giri. altri, io non ci vado in casa degli altri, è questo che voi non capite, porca puttana, ma che cazzo, parla piano, non mi rompete le balle. Eccolo qui, è un uomo che così parlava a Sansonetti, ancora dai vai. Lei si è posto una domanda se io non l'avevo. Se l'è mai posta sta domanda, ma dove vive lei? Sulla luna? Io conosco molte persone che non lo hanno, che sono vive e viva. Lei è vivo in ladro. Ma vada a farsi benedire. Beh, vabbè, lei ha un modo di ragionare, ma evidentemente lei ragiona solo con la pistola. Guardi che non gli ho mica invitato io di venire a casa mia di notte a luna 10, eh. Eccolo lì, vabbè, è diventato, non so, secondo me è pronto a candidarsi De Manzoni. Uno così è, non lo so, va da Barbara D'Urso, smettetela qui, porca di qua, vacca di là. E via. Vai, tu Pinocchio, lasciamolo perdere. Il fatto che sia andato da Barbara D'Urso, anche se vogliamo, no? Non piace neanche a me. Dopodiché un qualche attenuante l'uomo ce l'ha, no? Sì, sì, sicuramente. Un po' esasperato, un po' sotto pressione in questa situazione, lo è. E la sostanza, poi dovremmo andare alla sostanza di quello che dice... A me non sembra sbagliata, mi sembra più sbagliato quello che dice Sansonetti, quelli che dicono doveva sparare in aria, doveva fare questo, doveva fare quell'altro. Svegliato nel cuore della notte da uno che sta cercando di entrarti in casa, ti difendi. Io non ho una pistola, non ho una pistola e quindi non so come andrebbe a finire. Però ho visto come è andata a finire in tante altre situazioni in cui sono entrati due, tre, quattro persone in casa e hanno legato... gente che c'era, li ha massacrati di botte, qualcuno è morto, sì. Qualcuno è stato stuprato. Voglio dire, non è così semplice, non è così... Ah, è semplice parlare. Noi parliamo facile, ma lui aveva i nipoti, aveva della gente in casa. E dice, ma quel ladro era disarmato. Ma cosa vuol dire essere disarmato? Se vengono dentro tre ragazzotti un po' muscolosi di 25 anni... ti rovinano di botte, è già successo, continua a succedere, ti ammazzano di botte, prendono il coltello che è in casa tua e ti ammazzano con quello. Non c'è dubbio che abbia, come dire, le sue ragioni al di là della vicenda giudiziaria che poi vedremo. Noi tra l'altro alle 8:15 avremo ospite alle 8:20 Giulia Bongiorno, che vuole cambiare, ha detto, da ex parlamentare e avvocato, dice bisogna cambiare la legittima difesa. Mario, non so se hai un'idea su questo, ma te la chiedo dopo il traffico, perché dobbiamo andare a sentire il traffico e la tua amata segreteria telefonica e poi siamo qui. A Milan, io voglio sentire il traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Quando un 5 Stelle come Di Battista dice di non pagare il canone... Io mi sento un cretino, dato che l'ho sempre pagato. Poi, però ce la vediamo con questo furbo politico e con il suo partito demagogico, come tutti gli altri, alle prossime elezioni. Io pago e lui fa il furbo. E finalmente abbiamo trovato un posto nuovo per il signor Marino Ignazio, il quale si trasferisce da Roma, mo si va a fare un sindaco a Sanremo, dove ci sono un sacco di dipendenti comunali che timbrano e se ne vanno, si fanno timbrare e se ne vanno. Il prezzo dei contanti fino a 3.000 euro. Beh, intanto, prima ce li devo avere, no? Questi 3.000 euro. Perché io ho l'impressione che molti italiani non hanno neanche 500 euro. Ciao Alessandro, volevo parlarti di Sanremo, ex città dei fiori, ora città dei dipendenti ladri. Io suggerirei al sindaco di affiggere fuori del municipio le fotografie di quei signori, sperando che si vergognino un po'. Ciao! Siamo alla gogna per i dipendenti pubblici che non timbrano. Allora, Mariona Di Nolfi, che dici questo pensionato? Un po' su di giri, questo che ha sparato a Vaprio Ladda, però... Ma io dico la verità, la storia individuale di quell'uomo anziano, quel nipote in casa, non faccio fatica a giudicarla. In generale però mi preoccupa un po' il messaggio che passa del difendetevi da soli dal criminale che vi entra in casa... Perché tendenzialmente il criminale ti sopraffà, cioè, certo. Se tu hai un atteggiamento violento nei confronti dei violenti, al di là di qualsiasi valutazione dei termini, lasciamola proprio stare, tendenzialmente i violenti sono più bravi di te a usare la violenza. Quindi no, per un chiaro, pensionato che ce la fa, diciamo, in sì, caso alla 10 soccombono o 9 soccombono. No, soccombono lo stesso. La cosa è, se io devo difendere il patrimonio, cioè le cose, molto spesso è molto più semplice consegnare le cose e chiuderla lì. L'idea che tu fai il duello con i violenti fa vincere i violenti, e purtroppo veramente 9 volte su 10 finisce così. Sì, ma l'idea, quindi, l'idea che passa, quella del Far West, questa è sbagliata, su questo siamo d'accordo. Passa, cioè, un'idea che adesso sia bene come dire, armarsi e risolversela da soli perché lo Stato è inadeguato, che è tutta una prospettiva che ha persino un senso se non ci fosse poi alla fine però una vittima per terra, molto spesso. E non è il ladro, non è il ladro, non è il violento, non è la banda dei criminali, perché quella banda di 3 criminali di 20 anni, 22 anni, 25 anni, rumeni, disposti a tutto e magari anche a far male, come diceva De Manzoni, a fare molto male, non so se la soluzione di adesso mettiamoci a fare a chi è più violento, che di solito sono più violenti. Di solito sì, di solito rischia di finire così, almeno insomma, è abbastanza chiaro. O no, Massimo, che dici? Però alle volte finisce così anche se non hai la pistola, anzi l'abbiamo già vista questa cosa, quelli disarmati che poi li piangiamo il giorno dopo e li portiamo sì, però è vero, cioè avere una pistola, voglio dire, già una cosa, io non lo farei mai, però sì, poi se è una pistola io posso essere d'accordo, devi saperla, certo, anche usare, cioè poi questa idea che, voglio dire, usi la pistola, ti armi, spari, cioè poi, voglio dire, a non saperla usare bene, non è che se uno non è un criminale dentro, non è che poi se la cava facilmente. Comunque, la questione. Oh, ma Mario, non ti ho chiesto niente di questo sinodo, però non ci ammorbare adesso. Però sarebbe la notizia più importante del mondo, ma va bene, per carità, no, no, dobbiamo parlare di Ignazio Marino. La croce, Mario Di Nolfi dalla croce. Vabbè, dimmi solo se sei contento di questo sinodo. Sei contento? Assolutamente sì. Come fai a non essere contento? Una cosa così bella, immensa, che parla in maniera così dettagliata. Allora, la cosa è durata 2 anni per parlare dei temi di famiglia coinvolgendo le persone di tutto il mondo. Quale istituzione al mondo si è occupato di famiglia? L'ONU, il Parlamento Europeo, qualche università, accademia, con questo livello di intensità, con le cose scritte, votate una per una, con il resto. Magari così, con idee un po' di parte, ecco, così. È la Chiesa, che vuoi da me? Volevi diventare padre sinodale tu? Non succede. No. Io voto padre sinodale Massimo De Manzoni, insomma, padre. Lui lo vedo. Abbiamo sbagliato indirizzo. Padre. Vabbè, comunque, Marione, sei contento, insomma, questo sinodo? Sì, sono contento, ho scritto che dormo solo. Tu, se fossi parroco, daresti l'ostia ai divorziati, per esempio? E questo, come al solito, non avete capito niente. Non ha detto diamo l'ostia ai divorziati, valutino caso per caso. Hanno detto una marea di senza che ci sia scritto nulla sulla comunione e sull'eucaristia, che bisogna avere discernimento, che è una bellissima parola. Il tuo parroco te la dà? Il mio parroco non me la deve dare, non me la può dare, se non ti usa. Beh, a discernimento adesso potrebbe discernere. Io non chiederò discernimento sul mio caso, io so quello che è successo nel mio caso. Quindi il dato fondamentale è che resta nelle mani, come è sempre stato, dell'intelligenza dei sacerdoti, capire quello che accade. Va bene, staremo a vedere con questo discernimento. Ringrazio Mario Di Nolfi, grazie Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, che da oggi ne edicola anche il lunedì. E allora vi ringrazio, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracomitalia, anche in cloud. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Alessandro Milan, e leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti in punto, cari ascoltatori, e riparte una settimana di 24 mattino anche per la rassegna stampa. È la 130esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, peraltro, che parte oggi. E allora oggi avremo ospite insieme a Oscar Giannino dalle 8:15, minuto più minuto meno, l'avvocato Giulia Bongiorno. Parleremo di legittima difesa, parleremo se volete anche di rapporto magistrati politica, lo faremo insomma tornando anche sul caso di Vaprio Dadda, la vicenda che è tutt'altro che finita. Ieri questo pensionato è andato in TV, oggi spunta sui giornali, insomma la questione delle armi per i cittadini italiani, l'idea di armatevi e difendetevi, che è un'idea pericolosissima nel modo di vedere, ma insomma si sta un po' diffondendo. E allora andiamo a leggere questi giornali che trovate in edicola in questo lunedì 26 ottobre. I titoli intanto: Il Sole 24 Ore si concentra sul fisco, ecco chi risparmia con la mini tassa a forfè. Questo è il titolo di prima pagina, ovviamente uno studio della legge di stabilità. E sul fisco apre anche il Corriere della Sera: fisco, la rivolta dei dirigenti, colloquio Orlandi Padoan, la numero uno delle entrate sotto assedio, resisto, dice lei. Per Repubblica invece il piano di Marino per restare sindaco, scontro con il PD. Anche il Messaggero apre su Marino, Marino tratta lo stop di Renzi. Per La Stampa invece: Polonia vince la destra anti Unione Europea, migranti, niente intesa in Europa. La vittoria del centrodestra in Polonia. L'Unità: e ora tocca alle regioni. Capite? Non abbiamo ancora il taglio delle province, ma l'Unità si spinge oltre. Ora tocca alle regioni. C'è un'apertura sui Marò sul Quotidiano Nazionale, l'edizione del Giorno. Marò, l'imbroglio delle rotte. Dalle carte emerge che gli indiani hanno corretto la posizione delle due barche per rendere verosimile la traiettoria dei proiettili dei nostri fucilieri. È uno scoop sul Giorno. Ed eccolo qui, tra poco lo vedremo. Perché ho sparato al ladro, parla il pensionato simbolo, è il titolo del giornale. Mentre Libero, che da oggi esce anche il lunedì in edicola, la Casa Monica pentita, ecco chi copre il clan. Per la prima volta una crepa nell'omertà della famiglia che tiene in scacco Roma, parla una donna dei Casa Monica. Il Fatto Quotidiano invece parla da Vigo, magistrato, politici, fate pulizia, dunque lo scontro magistratura-politica. A proposito di scontro però, chi va allo scontro? Giorno 5 dell'era della resistenza mariniana è Ignazio Marino. Ieri ha fatto questa manifestazione, ha radunato tutti i suoi sostenitori. Simpatica la lettura del Corriere della Sera che dice erano 3.000 per Marino e i mariniani, erano la metà per il PD. Non risultano dati dalla questura, sapete che in genere c'è questa abitudine di dimezzare le presenze tra organizzatori e questura. In questo caso è il PD che dimezza le presenze rispetto ai 3.000 annunciati dagli sostenitori di Marino. Al Partito Democratico dicono saranno stati la metà. Comunque, Ignazio Marino, che ha citato una frase, sì è vero come avete scritto, di Albert Camus, che però ripresa da Che Guevara, resa famosa da Che Guevara, e cioè questa frase: siamo realisti, esigiamo l'impossibile, questo, o vogliamo l'impossibile, è la frase di Che Guevara. E c'è il sindaco di Roma che dice ripensarci, cioè ripensare e quindi ritirare le dimissioni, non vi deluderò. Ecco, ma a cosa punta Ignazio Marino? Beh, secondo il Messaggero il pressing è per vedere Renzi. Marco Conti lo racconta a pagina 3. C'è un muro del PD, ma lui vorrebbe incontrare Renzi. E sentite cosa risponde Orfini, pagina 3 di Repubblica. Ormai siamo agli stracci all'interno del Partito Democratico a Roma. È una storia finita, dice Orfini, che è il segretario del PD a Roma, nonché presidente del partito. Ha visto quanta gente c'era in piazza per Ignazio? Massimo rispetto, per carità, ma non mi è sembrata una rivolta popolare. Né mi sembra che Marino sia vissuto dalla città come un martire. Così Orfini inizia l'intervista o il dialogo con Tommaso Ciriaco su Repubblica a pagina 3. Poi aggiunge il presidente del PD: spero che non ritiri le dimissioni, che faccia prevalere l'interesse dei romani al suo, che non scelga una strada incomprensibile. E sì, che eviti questo tritacarne al suo partito e preferisca l'amore per la città. Altrimenti vorrà dire che lo sfiduceremo. Di fronte a un atteggiamento ridicolo come questo, amen, perché è chiaro che senza PD non si va avanti. Lo capisca Marino invece di portare avanti un balletto inconcepibile. Insomma, tra Marino e il PD ormai siamo agli stracci. Lui però dice: ripensarci, non vi deluderò. A proposito di Roma, vi segnalo appunto la pagina 1 di Libero. E cioè l'intervista a questa donna dei Casamonica pentita, la fa Giacomo Amadori, ed è in qualche modo una crepa che si apre nel muro di omertà dei Casamonica, no? La famiglia che tiene in scacco Roma, secondo alcuni, è la famiglia dei famosi e celebri funerali di quest'estate, con polemiche che hanno fatto il giro del mondo. Per la prima volta una crepa nell'omertà della famiglia, parte tutto da un tradimento proprio d'amore. Questa donna che è stata lasciata dal marito, che si è messa con una ragazza più giovane straniera, un gran classico anche evidentemente per i Casamonica. Ecco chi ci siamo comprati. Parla, contattando il giornalista Giacomo Amadori, parla di un medico che firma i certificati, parla di... non fa molti nomi per il momento, ma l'idea è quella di un inizio di collaborazione. Parla di un tesoro, di un patrimonio dei Casamonica che è tutto in Moldavia, hanno portato tutto lì. Le macchine sono tutte intestate a un certo Pietro I. Puntato, non viene detto il cognome, ha una sessantina d'anni, è stato fermato per un'auto importante da 50-60 mila euro, va lui a riscuotere i soldi perché è pulito in modo che non compaiano i Casamonica. Insomma, tra frasi dette e non dette è l'inizio di un racconto che trovate a pagina 6 e 7, in prima pagina, il titolo più importante di Libero, che cerca di fare breccia nel clan dei Casamonica. Mentre l'altra notizia che rimane ancora molto molto trattata sui giornali è quella del pensionato Francesco Sicignano, che ieri è andato da Barbara D'Urso in TV, è colui che ha sparato a Vaprio Dadda e oggi parla al giornale. Il titolo di prima pagina: perché ho sparato al ladro. Paola Fucilieri lo intervista, l'intervista è il titolo di prima pagina e poi continua a pagina 9. La verità verrà fuori, dice Sicignano, quando chiuderanno le indagini potrò essere più esplicito. Ma la dice lunga il fatto che venga sostenuto dal 75% degli spettatori di Sky in un sondaggio. Insomma, si difende così. Il proiettile che ho esploso, l'unico sparato, i carabinieri l'hanno trovato vicino al divano dove è seduta lei adesso, cioè lei, la giornalista del giornale. Se avessi voluto, avrei potuto sparare anche agli altri due complici. Erano a pochi metri di distanza in giardino, ma ho sparato in aria per farli allontanare. Non c'era volontà di uccidere. Ho visto, quando mi sono svegliato, una sagoma che si muoveva e una piccola torcia, nient'altro. Non gli ho visto nemmeno le mani. Era una sera senza luna, qui come vede i locali sono bassi. Da qualche anno dormivo con la pistola sul comodino, l'arma ce l'ho dal 94, ma l'ho messa sul comodino dal 15 ottobre, quando alle ore 20 in casa non c'era nessuno, il mio dirimpettaio ha visto tre ladri che, dopo aver scassinato la porta dell'appartamento al piano rialzato, erano entrati in casa. Lì non c'è niente e se n'erano andati. Comunque, avrei potuto sparare a tutti, ma non volevo ammazzarli. Questo è il titolo dell'intervista che trovate a Francesco Sicignano. Ne parleremo più avanti. Oggi però Repubblica invece va in qualche modo a fare una controintervista, nel senso che Paolo Berizzi intervista i genitori dell'uomo ucciso, i genitori dell'albanese. Si tratta di Mark Gioni e sua moglie Marie. Entrambi 48 anni, vivono a Gojan, un paesino di contadini in Albania. e dicono c'è incredulità e rabbia, la rabbia di chi non capisce e vuole sapere. Sulle prime ci hanno detto che per sbaglio era partito un colpo a un poliziotto ed è stato ucciso nostro figlio, poi invece ci hanno detto la verità. Beh, ma voi lo sapevate che lui rubava negli appartamenti? No, sapevamo quello che ci avevano raccontato e cosa ci raccontava lui, e cioè che lavorava. E noi gli credevamo, abbiamo anche un nipote che fa il cuoco a Firenze. Comunque, dicono i genitori, non doveva morire così. Se ha sbagliato, e ha sbagliato ad andare a rubare, ancor di più ha sbagliato chi l'ha ucciso in quel modo. Lui era un ragazzo sempre allegro, scherzava con tutti, affettuoso in famiglia, generoso con gli amici. Se nostro figlio ha sbagliato, ribadiscono ancora più avanti nell'intervista, doveva essere arrestato e punito dalla legge, ma non ucciso con un colpo al cuore. Nostro figlio ha sbagliato, ma chi lo ha ucciso ora deve pagare. Questo è il titolo dell'intervista ai genitori di Gjergj Gjoni, il 22enne albanese colpito a morte dal pensionato. La trovate l'intervista su Repubblica a pagina 19. Ma eccoci qui, voglio assegnare l'articolo premio Mani sul volante, l'articolo cioè che mi fa più pensare di questa giornata. Ed è un'intervista a Ciro Rinaldi. Chi è, direte voi? Ciro Rinaldi è un dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico che ha fatto che cosa? Ha smascherato denunciando i colleghi disonesti, quelli che timbrano e poi vanno a fare altro. Risultato, i guai li ho avuti io. Intervistato dal Giorno da Enrico Barbetti, eccolo qui. Ho già preso dei cazziatoni per avere criticato le sentenze. Lavoro sempre al Ministero dello Sviluppo Economico, ma vengo visto come quello che ha denunciato i colleghi, per cui non mi saluta più nessuno. Il vecchio dirigente me l'ha fatta pagare, mi ha mandato in procura per i chilometri fatti a proposito delle ispezioni postali, poi hanno archiviato tutto perché era tutto regolare, e quando mi chiedono ma chi gliel'ha fatto fare, beh, dice, io rifarei tutto, ma capisco chi si pone dei problemi a denunciare. Ci sarà il 2 dicembre la sentenza contro i presunti fannulloni della sede bolognese del Ministero dello Sviluppo Economico. Lui ha denunciato tutto, Ciro Rinaldi, ma dice solo 9 sono finiti a processo. Il risultato, ora non mi saluta più nessuno. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Carino, la rassegna stampa logora chi non ce l'ha. Ciao caro. Presidente, buongiorno e grazie. Grazie per questo augurio. Allora, alle 7:36 minuti, la legge di stabilità è ancora un piatto forte per i giornali, soprattutto ci sono le regioni che sono sul piede di guerra perché le regioni vedono dei tagli e protestano. Racconta Mario Sensini oggi a pagina 5 del Corriere della Sera che il governo prepara un decreto legge per tamponare i bilanci delle regioni. La vicenda è un po' complicata, l'abbiamo già raccontata in passato, riguarda una sentenza della Corte Costituzionale e tutto nasce dal 2013. Nel 2013 il governo prestò 20 miliardi alle regioni per pagare i debiti con i fornitori. Solo che alcuni governatori, seguendo indicazioni peraltro un po' ambigue del Ministero dell'Economia dell'epoca, scrive il Corriere, invece di usare questi 20 miliardi per pagare i fornitori, finirono per usare quei soldi per finanziare nuova spesa. Risultato, la Corte Costituzionale ha bocciato per questo il bilancio del Piemonte. E ora si appresta a bocciare i bilanci, c'è il rischio con altri giudizi di altre regioni. Ed ecco allora che il Piemonte rischia di finire gambe all'aria con un deficit che da 300 milioni è passato a 5 miliardi, salito a 6 miliardi nel 2014. Ora c'è il rischio di altre regioni che possono seguire il Piemonte, insomma. Il governo sta pensando a un decreto per ripianare 20 miliardi possibili di buco delle varie regioni. Tutto questo pasticcio proprio nel giorno in cui l'Unità, l'Unità titola in prima pagina così: e ora tocca alle regioni. Mi colpisce questo e ora, visto che io qui aspetto ancora che le province vengano abolite, ma sappiamo c'è l'iter della riforma costituzionale, però va bene, attendiamo questo iter, dopodiché non sono io ad aver detto che le province sono già state abolite, ma qualcun altro. Comunque, Federica Fantozzi oggi sull'Unità racconta che ora si pensa proprio a ridurre le regioni. L'ipotesi del governo è questa: il governo ha incassato l'ok del Parlamento e prepara il tavolo con i governatori per far scendere da 20 a 12 le regioni, risparmiando 2 miliardi di euro. Tra l'altro, l'Unità mette, sempre con Federica Fantozzi a pagina 2, una sorta di collage di tutte le inchieste, vi ricordate, da Batman a Fiorito, alle vicende di Roberto Formigoni, alle mutande verdi piemontesi di Roberto Cota, insomma, regione che vai, scandalo che trovi, ostriche, mutande verdi, ogni consiglio al suo scandalo. Ed ecco allora la proposta del disegno di legge Morassut-Ranucci di due parlamentari che vogliono, puntano a diminuire le regioni da 20 a 12. Ne abbiamo parlato anche in passato, chissà se mai si farà. C'è anche la mappa delle varie regioni, regione Adriatica per esempio, ne ho beccata una che metterebbe insieme l'ex regione Abruzzo, la provincia di Macerata, Ancona, Rieti, Ascoli e Isernia, la regione del Levante che mette insieme l'ex regione Puglia e le province di Matera e Campobasso, per dire come le 20 regioni potrebbero diventare 12. Comunque, a proposito di legge di stabilità, o meglio di fisco e di tasse, c'è un subbuglio, in subbuglio l'Agenzia delle Entrate. Anzi, per il Corriere della Sera l'Agenzia delle Entrate è nel caos, i dirigenti declassati fanno causa. La vicenda, anche questa, è già detta: metà dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, 400 su circa 800, sono stati degradati al rango di semplici funzionari dopo che una sentenza della Corte Costituzionale ha giudicato illegittime le loro promozioni perché erano arrivati con procedure interne senza concorso. Ora, la novità importante, però, racconta Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, è che questi dirigenti hanno fatto causa all'Agenzia delle Entrate stesse e anche al governo, perché il loro stipendio è passato da 4.000 euro netti a 1.700 euro e poi hanno anche lamentato una perdita di opportunità di carriera. Dunque, c'è il caos, intanto per questa sentenza, e poi c'è Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, letteralmente sotto assedio. Il Corriere parla di un colloquio tra lei e il ministro Padoan, e sentite il sottosegretario all'economia, dunque sottosegretario di Padoan, Enrico Zanetti, intervistato da Repubblica, intervistato da Valentina Conte a pagina 6, come parla del direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi. Si deve dimettere. Certo, la decisione compete al ministro dell'economia, al presidente del Consiglio, non c'è alcun accanimento, ma sto parlando come membro del governo. Parlo come componente del governo e dico che in questi mesi l'approccio dell'Agenzia delle Entrate ha determinato forte irritazione al Ministero e al Governo. Non possiamo consentire ai dirigenti, i famosi dirigenti bocciati da una corte, degradati dalla sentenza della Consulta, dirigenti assunti in modo illegittimo, non possiamo consentirgli di tornare ai posti senza concorso. E invece ci sorbiamo da mesi la tiritera del direttore Orlandi che dice di non essere in grado di andare avanti. È ragionevole darsi una mossa e fare i concorsi. Questo fa un direttore. Se non si sente in grado di fare questo, lasci il suo posto. Così il sottosegretario all'economia Zanetti. Questo non allenterà le tensioni, io credo, Io credo. Ma sa tutto Mauro Meazza, come sempre. Mauro, buongiorno, abbiamo recuperato due punti, lo sai. Buongiorno, beh, una vittoria perentoria, mi è parso perentoria, con un colpo di testa assolutamente perentorio, per l'appunto, mi hai tolto l'aggettivo di bocca. Perentoria come le dichiarazioni, appunto, che leggevi poc'anzi. Abbastanza, abbastanza. Dichiarazioni abbastanza perentorie, vittoria perentoria, vabbè. Guarda, io... ti vorrei segnalare che se prima, poco fa, tu citavi i malesseri delle regioni per i tagli della stabilità, ti voglio pronosticare che questa settimana sentirai i malesseri dei comuni, perché come riferiamo sul Sole 24 Ore, non nelle pagine di norme e tributi, ma nelle prime pagine, in vista dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni, abbiamo fatto due conti sull'effetto della spending review e tra l'altro con questo effetto un po' paradossale, per cui i comuni che hanno offerto più servizi in questi anni si sono visti tagliati più fondi. Ah. Com'è possibile? E come infatti è un paradosso mica male. È possibile, te lo spiega bene Gianni Trovati da par suo, che peraltro annuncia anche la possibilità adesso con la legge di stabilità di sbloccare delle risorse per gli investimenti, 2 miliardi e 200 milioni, meglio di niente, più dei due eurini che tu abitualmente metti in campo. Ma se tu fossi una professionista, magari i due eurini sarebbero uno. Una professionista di che cosa? Una professionista, non so, un avvocato, una commercialista. Non volevo sottintendere alcunché. Lontanissimo. No, invece ti voglio sottolineare la infodata di oggi, se puoi mostrarla gentilmente agli ascoltatori, a pagina 5. È da un po' che non ne mostravo, effettivamente. Infatti, guarda, nell'infodata si capisce bene come ci sia un divario di genere tra i professionisti iscritti negli albi, appunto. Professionisti, avvocati. È chiarissimo. Le donne guadagnano di meno degli uomini. È chiarissimo. Quindi non so, prendiamone atto, non è la prima volta chiaramente che segnaliamo questa cosa, però ci fa piacere in qualche modo, cioè non ci fa piacere ricordarlo, ma è utile forse ricordarlo. Oh, poi ti voglio dire che oggi con il Sole 24 Ore c'è la pagella delle città ecosostenibili, in anteprima viene presentata integralmente oggi, trovi le anticipazioni sul Sole 24 Ore di oggi e poi, non so, potresti arruolarti in marina. Tu hai passato i 25 anni, Alessandro? Da poco. Ah, peccato, perché come spieghiamo nelle pagine di lavoro e carriere, c'è la possibilità di un bando per 1500 uomini o donne che vogliono arruolarsi in marina, però il limite di età è stato 25 anni, quindi forse per qualche mese... Un paio mese, d'anni fa, se mi avvisavi magari... Per qualche mese non ce l'hai fatta, leggi lavoro e carriere comunque, che è sempre molto utile e non si sa mai, caro Alessandro, hai visto quelli che dicono che la gente si deve dimettere, è un attimo. Allora, invece religiosamente leggerai, come al solito, le pagine, dillo tu. Di norme e tributi, certo. Ah, ecco. Di norme e tributi, scoprirai come è cambiato il part time nell'epoca del Jobs Act, insomma il lavoro a tempo parziale nella riforma del lavoro, esatto. Okay, in italiano è diventato più flessibile, più elastico, ci sono delle possibilità di utilizzo un po' diverse, ti spieghiamo tutto in norme e tributi, altro non ti vuol dire e per quest'oggi così ti basti e soprattutto, caro Alessandro, traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Milan, è il caparap dell'informazione. E allora, cari ascoltatori, vi segnalo ancora c'è tensione tra magistrati e politica. Si è concluso ieri il 32esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati e c'è da dire che ieri era presente il ministro Boschi per cercare di ricucire quelle che sono tensioni, che sono tensioni continue che ci sono tra la magistratura e la politica, tanto è vero che Giuliano Ferrara fa un editoriale di prima pagina sul Foglio a dire i PM che trattano Renzi come Berlusconi. E racconta ancora Giuliano Ferrara nel suo editoriale quello che è il partito dei magistrati e per i quali invoca per Renzi di non ripetere gli stessi errori di scarsa radicalità, eccessiva tolleranza che hanno portato tutte le leadership che lo hanno preceduto, Berlusconi ma anche D'Alema, anche Prodi, anche Craxi, allo sfarinamento dell'autonomia rispettiva di giustizia e politica. Dunque invita alla riforma radicale della giustizia il presidente del Consiglio Renzi. Questo Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio. Ma voglio andare un po' agli esteri. Agli esteri troverete molto della Polonia, dove ha vinto la formazione di destra anti-Unione Europea. Questo rischia di far saltare anche gli accordi per il trasferimento, per esempio, dei migranti, la ripartizione. E questo è un punto importante che va a riflettere dunque anche sull'Italia e su tutta l'Unione Europea. Come vi voglio segnalare, su Repubblica lo trovate, anche sulla Stampa, la svolta di Tony Blair sull'Iraq. Tony Blair, ex premier britannico, ha fatto un'intervista alla CNN e ha ammesso una serie di errori sulla guerra in Iraq. Io e Bush abbiamo sbagliato, verrebbe da dire tante grazie adesso nel 2015. Comunque Enrico Franceschini racconta, pagina 13 di Repubblica, Tony Blair in qualche modo dice «I'm sorry». L'ex leader laburista chiede scusa, anzi tre volte scusa, per gli errori dello spionaggio britannico che avevano attribuito a Saddam Hussein il possesso di armi di distruzione di massa, per errori nella pianificazione della guerra, per la mancata comprensione di quelle che sarebbero state le conseguenze del conflitto, ovvero l'instabilità che ha sconvolto l'Iraq e le regioni circostanti. Dunque, di fatto, Blair ammette la propria responsabilità, anche se non totale, ma parziale, per la guerra fatta in Iraq anni fa. E poi c'è molto di sport, soprattutto che è successo. Io non seguo il motomondiale, non sono appassionato, ma tutti i giornali raccontano, in prima pagina della Gazzetta, ma anche i giornali generalisti mettono la vicenda di Valentino Rossi in prima pagina. Che ha combinato Valentino? Lui dice nulla. Certo, sono cascato nella trappola di Marquez che mi ha innervosito, ma non gli ho dato un calcio. Sta di fatto che questa è l'accusa, squalificato, insomma dovrebbe partire nell'ultima gara in Spagna all'ultimo posto. Sta di fatto che le immagini sembrano far vedere un Valentino Rossi che fa cadere Marquez. Lui si difende, intervistato sulla Gazzetta dello Sport, e dice assolutamente non l'ho fatto cadere. L'ho guardato 5-6 volte, certo, per dirgli ma che bip stai facendo? Era evidente il suo modo di correre, quali fossero le sue intenzioni, ma non volevo far cadere Marquez, non gli ho dato un calcio. Quando perdo il piede dalla pedana, lui era già caduto, mi è arrivato con il manubrio addosso, sulla coscia sinistra, ed è per quello che è volato via. D'altronde, una 500 è troppo pesante per farla cadere con una pedata. Comunque, che ha fatto? Ci si divide tra chi dice ha perso letteralmente le staffe, si è fatto... è caduto nella trappola in qualche modo, gli sono saltati i nervi. C'è chi dice ha fatto bene l'Italia, che si dividerà. C'è anche Fiorello che si è espresso a dire dai Valentino, anch'io quando vengo provocato perdo le staffe e poi passo dalla parte del torto. Sta di fatto che il dramma sportivo di Valentino Rossi è in prima pagina un po' ovunque. Vabbè, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Allora, che cosa mettiamo? Cosa mettiamo? Due pagine di Repubblica a raccontare che siamo ormai una famiglia YouTube. Sempre tutto su YouTube, il lavoro, la cena, le ore col bebè, il funerale dei figli. Tutto finisce su YouTube. Siamo la famiglia YouTube. Ma chi se ne frega? Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino! Licenziato! Voi due due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar. Buon lunedì. Qua, buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori. Buona settimana anche a te, Alessandro. Che santo è oggi? Sant'Alfredo. Sant'Alfredo, Sant'Alfredo. Va bene, va bene. Quando arriva Sant'Ignazio? Sant'Ignazio, quando arriva Sant'Ignazio? Lo so, vuoi dire fatta la festa, gabbato lo santo? No, lui no. Mi pare che sta lì, che non se ne vale proprio. Non... Lui ovviamente è l'Ignazio più famoso che c'è in questo momento, Ignazio Marino, che ieri ha radunato i suoi sostenitori. Beh, bella questa cosa, hai visto che per il PD erano 1.500, per lui 3.000, la questura non si è pervenuta. Ma insomma, ti piace questa cosa di Ignazio Marino che resiste? Beh, però come hai detto sempre tu, sì, infatti tu speravi perché dici almeno vedo colore. Ma certo, se ne vede, come hai visto, se ne vede a bizzeffe. Per vedere l'effetto che fa, come visto che tu la utilizzavi sempre la canzone di Ignazio, è per vedere l'effetto che fa. Devo dire che sì. Vogliamo sentirlo Ignazio Marino che rimane? Ecco. Forse. Guajira para el recuerdo. Mi chiedete di ripensarci. Sì! È tutto in coro, dai Oscar, sì. Non vi deluderò. Vabbè. Che Guevara. Hai capito? Sì. Ha citato Che Guevara. Io penso che adesso gli verrà la cosa che scriverà in Campidoglio e poi penserà di essere Salvador Allende. Bisogna mandare degli aerei di cartone per farlo uscire, non lo so. Amici di Roma, voi che avete anche la Roma prima in classifica, non so, gli amici della Lazio non saranno molto contenti di questa. Comunque 800 24 00 24, fa bene Marino a resistere a questo punto, potete chiamarci anche su questo, perché no? Beh, io trovo azzeccato un po' il titolo del Fatto Quotidiano del lunedì che fa Roma è a pezzi, Marino no. Ma infatti non si parla più di Roma, l'abbiamo detto qui, di Roma, la città magari con la spazzatura, con le buche eccetera, ma la questione politica. Ma tu hai capito cosa vuole Ignazio Marino? Cioè, perché io leggo sui giornali, perché a me risulta difficile, lo ammetto, però leggo che per esempio Repubblica dice che il piano è per restare sindaco, altri dicono per correre alle primarie e avere il contentino. Quindi è difficile veramente capire. Io mi limito a dire che Sergio Rizzo ricorda che una aziendina non proprio secondaria di Roma, cioè l'ATAC, la famosa municipalizzata più scassata d'Italia, ha 21 legali, ma nei processi manda i consulenti esterni. E io preferirei in questo Marino parlare cosa c'entra? Marino cosa c'entra? La municipalizzata più scassata d'Italia, sono passati anni, è sempre la più scassata destra. Sì, l'ATAC che è quella che vi starà facendo funzionare anche oggi perfettamente la metro di Roma e tutti i mezzi di trasporto, cari cittadini. Però Oscar, ecco, questa ce la devi spiegare, perché io l'ho letta in rassegna stampa. Che cosa sta succedendo all'Agenzia delle Entrate? Abbiamo raccontato varie volte che metà dei dirigenti di fatto sono stati degradati, perché non erano stati promossi per concorso ma per promozioni interne, e quindi la Corte Costituzionale ne ha degradati ma circa la metà, no? 400 su 800. Da questo punto di vista adesso è degenerato tutto, anche il rapporto tra il direttore dell'Agenzia delle Entrate e il governo. Sì, c'è una vera... Cioè, il bacio di ferro è diventato sempre più rovente di mese in mese, perché ormai sono passati mesi da che la sentenza della Corte Costituzionale è avvenuta, è stata emanata e ha preso atto della realtà. L'Agenzia delle Entrate si è sviluppata per anni con un modello organizzativo del tutto autonomo, fuori dal comparto pubblico, quindi senza concorsi pubblici, si diventa dirigente per nomina interna, lo si fa a tempo, il che agevola una struttura organizzativa per cordate e fedeltà. E la Corte ha detto no, ragazzi, quindi voi siete dirigenti illegittimi. Si è aperto un problema se gli atti firmati da quei dirigenti fossero impugnabili o meno, e molte commissioni provinciali, tributarie e regionali hanno detto sì, impugnatele, quindi si è aperto un problema di danno erariale. E poi si è aperto un problema subito, come facciamo? Il governo ha detto dall'inizio, secondo me giustamente, noi la sanatoria non ve la diamo, perché... Chi per anni è stato la testa di questa dell'agenzia, dell'agenzia tributaria, doveva capire che doveva fare i concorsi. Quindi fate il concorso dall'anno prossimo. Nel frattempo però i vecchi dirigenti, di fronte al fatto di essere degradati e pagati meno, hanno fatto ricorso. Hanno denunciato tra l'altro la stessa agenzia delle entrate per cui lavorano e il governo. Pazzesco. E il governo. La Orlandi, cioè la testa dell'agenzia, dall'inizio si è battuta per la sanatoria apertamente, creando un imbarazzante problema nei confronti della legittimità Corte Costituzionale e del governo. E oramai siamo alle campagne sui giornali dicendo tutti se ne vanno perché se non gli diamo soldi aggiuntivi, stiamo sbaraccando la lotta all'evasione. Guarda... E d'altra parte però c'è oggi un sottosegretario, il sottosegretario Zanetti, che su Repubblica dice se la Orlandi non è in grado se ne vada, cioè siamo veramente agli stracci. Ecco. Ma siamo agli stracci perché qui c'è un direttore dell'Agenzia delle Entrate che dice io voglio continuare a nominare dirigente, che dico, anzi voglio, chiedo più soldi. Cioè è diventato l'unico comparto, sai che per fare il nuovo rinnovo dei contratti pubblici bisogna passare da 12 comparti a 4, loro sono gli unici tutti i giorni sui giornali con il Corriere della Sera che fa una campagna però dicendo noi dobbiamo, abbiamo diritto a un contratto solo per noi, ma insomma è una cosa pazzesca. Insomma, è una vicenda che rischia di paralizzare poi davvero il lavoro dell'Agenzia delle Entrate, cioè questa è la domanda che interessa forse ai cittadini. Loro stanno usando quest'arma sediziosa, uno, due, è un appello secondo me al Parlamento perché legge di stabilità, chi vuole dare un ceffone a Renzi e a Padoan che fino a questo momento non hanno da Toretta, provi il modo di accontentarli, e questo è politicamente lo trovo scorretto. È una battaglia diciamo politica ai vertici, bisogna capire se voi se voi cittadini, in che cosa voi cittadini va poi a impattare sulla vita quotidiana, perché poi questa è la questione. Non so se sapevate di questa vicenda, raccontateci qualcosa se siete al corrente oppure no. Tra l'altro noi Oscar oggi parleremo un po' anche di questa, lo facciamo a freddo, passati un po' di giorni, una settimana, questa vicenda della legittima difesa, perché questa vicenda di Vaprio Dadda, io non lo so, chi consiglia questo pensionato, Francesco Sicignano, che potrà avere tutte le ragioni del mondo per alcuni, però a vederlo in televisione, ma va in TV da Barbara D'Urso, si autodistrugge in vista del processo, e tratta Piero Sansonetti, che vabbè è un collega, un giornalista, ma non è tanto per la difesa corporativa, ma insomma sentite il Sicignano, colui che ha sparato a Vaprio Dadda uccidendo uno che gli stava entrando in casa o gli è entrato in casa. Io vorrei vedere lei che a casa, hanno, ma che sono vive e viva, lei è vivo il ladro. Ma vada a farsi benedire. Beh, vabbè, lei ha un modo di ragionare, ma evidentemente lei ragiona solo con la pistola. Guardi che non gli ho mica invitato io di venire a casa mia di notte all'1:10. Io non ci vado in casa degli altri, è questo che voi non capite. Porca puttana, ma che cazzo parla piano, non mi rompete le balle. Ma ti rendi conto, caro Oscar? No, io capisco l'esasperazione, ha ucciso un uomo e si è trovato in una situazione in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi in vita sua. Ma perché tu dici addirittura si sta autodistruggendo per il processo? Non lo so, io ho due pensieri da che dichiara in questo modo, infatti appunto mi piacerebbe parlare con l'avvocato per capire. Il primo, fin da quando si è affacciato dalla sua villa, quando c'era il corteo politico di Cineggiava, ha salutato il corteo, poi ha parlato pubblico di candidato, insomma ha fatto capire che occhieggia una cosa politica. Questo secondo me, vista il processo, cioè, più che altro ha insultato i politici, ha detto colpa dei politici idioti se io ho la pistola. Qualcosa di più, l'ammiccamento è qualcosa di più. Secondo, poi se va in televisione a difendere in questo modo, insomma sgangherato, i suoi argomenti, anche l'argomento di chi seriamente dice riflettiamo, lo faremo no, con il nostro ospite oggi stesso, riflettiamo se queste norme sono da cambiare, quelle della legittima difesa eccetera, però così non si può fare, diventa una caricatura sgangherata come devo dire. Sì, oggi c'è da dire che viene intervistata anche dal giornale Repubblica, invece intervista i genitori albanesi dell'albanese ucciso. Tutti gli italiani hanno un'idea di questo, no? Devo dire che la maggior parte degli italiani sono dalla parte del pensionato a dire ha fatto bene, in maniera molto chiara. Il problema è che la legge è poco chiara, infatti noi avremo l'avvocato Giulia Bongiorno, avvocato penalista, ex parlamentare, che ha lanciato la proposta di renderla un po' più chiara questa legge, perché adesso chi spara, anche col ladro in casa, si trova spesso nei guai, no? E questo scatena ogni volta appunto una corrente emotiva contrapposta, come devo dire, che impedisce di ragionare, perché sembra che da una parte ci sia la volontà di qualcuno di esporre gli italiani nelle loro case alle irruzioni in cui violentano le mogli, si rapina tutto, non credo che sia così, dall'altra invece c'è chi dice voi siete quello che inneggia al far west, la destra, cerchiamo di intendere sempre per però steccati, con i toni del signore che abbiamo sentito è difficile ragionare. Infatti sentiamo Maria Cristina che ci chiama chiama da Roma, dalla Roma della resistenza marignana. Che Guevara. Le piace Maria Cristina Che Guevara al governo di Roma? Ma no, io non, diciamo, da questo punto di vista non sono mai stata molto politicizzata. Io sto guardando soltanto l'amministrazione della città, diciamo la corretta gestione della città. E quindi a me interessa che Roma venga amministrata in maniera trasparente, in maniera onesta, dopo decenni di malgoverno. Quindi cosa consiglierebbe a Marino? Io veramente, fossi il PD, affiancherei, visto che Marino è stato dimostrato, insomma, da intercettazioni che non è colluso con tutto il malaffare che rappresenta chissà da quanto, affiancherei Marino, che si è dimostrato onesto, con degli amministratori capaci, con dei collaboratori capaci che siano in grado di gestire bene la città, di farla funzionare, perché se lei va in una qualunque altra città, la trova che i servizi funzionano. Il PD, ma signora, qua c'è Oscar Giannino e io che abbiamo una faccia, il PD a Roma, oggi il presidente del PD Orfini dice ma la smetta Marino con questa, com'è che l'ha chiamato Oscar, un balletto ridicolo. Quindi il PD sembra avere totalmente abbandonato Marino, non... lei signora invece vede... Ho votato Marino e devo dire io non mi dà di mettere un sindaco per una faccenda di quattro scontrini che può darsi pure che insomma non siano così, così reali poi queste responsabilità. Io vorrei capire il motivo vero. Se ci dicono il motivo vero, qual è il motivo vero per cui Marino si deve dimettere, allora si può ragionare. Qui c'è questa questione, grazie Maria Cristina. Oscar, c'è questa questione che adesso c'è un motivo vero, non detto, sottaciuto, ma non è banalmente insomma gli scontrini e poi tutta una serie di gaffe che... Le gaffe sono tante, ma poi lo svolto lo stato della città è eclatante, adesso non vorrei dire. Io ricordo tutti che nel rapporto della relazione, nella relazione dell'ANAC, la percentuale di... gare senza evidenza pubblica resta in ammontare diverso, inferiore rispetto a quello di Alemanno, ma in percentuale sul totale della gara uguale, 86%. Non lo so, però così dicono i numeri dell'ANAC, non quelli di Giannino. Insomma. Però deve resistere, a mio modo di vedere, deve resistere. Comunque, ma voglio... tu lo dici sempre per l'attitudine, così per ci vedere divertiamo. L'effetto che fa, così ci divertiamo. Però così ci divertiamo. È ovvio che ogni credibilità del divertendoci poi viene meno. Del resto, siamo anche un paese in cui il segretario della UIL, Barbagallo Gallo, oggi secondo me vince la battuta dell'intervista che viene da Marte, perché chiede sulla stampa 7 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti pubblici, che vuol dire proprio venire da Marte. Ma non è quello il tuo Oscar però? No, lo segnalo perché a me diverte le uscite di Barbagallo, devo dire, lo dico con rispetto, però ha aggiunto per così un certo sapore alle cronache sindacali. Questo ex operaio della Fiat, credo, no? Che insomma, che con questo forte carattere siciliano che mette quando questo accento siciliano, anche 7 quando miliardi parla. Uno dice insomma da Marte, però è così, insomma. È così, vabbè, ma gli diamo i nostri Oscar, diamo i nostri Oscarucci. And the Oscar goes to... Allora, io lo do velocemente a questo dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico che è stato intervistato dal Giorno e che dice: io ho denunciato tutti i miei colleghi a Bologna che praticamente non timbravano il cartellino, si chiama Ciro Rinaldi, andranno tutti a processo il 2 dicembre, ma... Che è successo? Non mi saluta più nessuno. Sai come? Però insomma, adesso noi ridiamo, no. Ma guarda che è una vita dura quello di chi si mette contro. Fare whistleblower, quello che... Esatto. Secondo me questo signore, sono d'accordo con te, costruisce un pezzo di credibilità civile dal basso. E dice: lo rifarei, però non mi saluta più nessuno in ufficio, vengo isolato. A lui va il mio Oscar, perché ci vuole coraggio. Devo dire che in realtà condivido la tua scelta. Io lo attribuisco per una volta nella vita a Luciano Violante, l'intervista della Repubblica, che interviene proprio sulla questione della polemica magistrati-governo della ANM, di cui hai anche parlato nella rassegna stampa stamattina, perché per due giorni ha vampato sui giornali, e usa secondo me degli argomenti e dei toni molto seri Violante oggi, perché dice: la politica da una parte attacca la magistratura, ma usa sempre i magistrati come scudo, cioè fa l'ANAC, l'assessore Sabella a Roma, eccetera eccetera, e dall'altra è vero anche che entrambi usano toni poco seri. Cioè, mi sembra un'intervista interessante, equilibrata, interessante. Allora, noi parliamo di legittima difesa tra poco, ma se volete anche di magistratura perché e politica, perché abbiamo un ex parlamentare, Giulia Bongiorno, avvocato, quindi un pezzo importante del comparto giustizia. 800 24 0024, state con noi tra pochi minuti. Eccoci Oscar. Eccoci tornati. Sono le 8:37 minuti. Allora, vogliamo sentire ancora qualche ascoltatore? Piero da Savona ci chiama su questo tema. Tra l'altro abbiamo chiamato l'avvocato Buongiorno, ma in questo momento non risponde, ma contiamo e confidiamo che sia con noi tra poco. Piero da Savona, buongiorno. Oh, buongiorno. Riguardo alla legittima difesa, vorrei allora, se possibile, sgombrare il campo da qualche stereotipo, banalità o imprecisione, no? Allora, anche sulla terminologia, si parla spesso di giustizia fai da te, ma la giustizia fai da te non c'entra assolutamente nulla col fatto di difendersi. Giustizia fai da te sarebbe aspettare fuori dal carcere il reo, il ladro e farlo fuori, oppure inseguirlo per 2 chilometri e sparargli alla schiena. Non vedo come sparare nella propria abitazione per difendersi possa configurarsi come giustizia fai da te. Seconda cosa, spesso i media parlano di ladri armati piuttosto che disarmati, ma anche qua con la legge del 2006 questa discriminante almeno mi pare non ci sia più, perché la proporzionalità è sempre presunta. D'altra parte, al buio di notte entra qualcuno e non è che stai a vedere se è armato o disarmato, a parte che poi puoi essere anche disarmato, ma puoi essere un bestione di 2 metri fatto di coca, voglio vederlo con una persona magari anziana. Sì. Un'altra cosa, spesso si parla di Stati Uniti, Far West, queste cose, no? Ma non c'è alcuna correlazione fra le leggi più libertarie in materia di armi e la diffusione degli omicidi o dei crimini. Basta vedere le statistiche, no? Stato per stato, lei vede Vermont, North Dakota, Montana, ci sono leggi molto libertarie riguardo le armi e la percentuale di omicidi è enormemente più bassa rispetto a città come Chicago, Philadelphia, dove addirittura ci sono leggi più restrittive. Però Piero, ricordiamolo sempre, io pure sono libertario del natura, ecco, insomma, non siamo gli Stati Uniti, non c'è il secondo emendamento della Costituzione americana, abbiamo ricordato perché c'è lì e non lì serviva contro i federali, addirittura le storie sono diverse, noi non abbiamo paragonare Italia e Stati Uniti, esatto. non è proprio possibile, una cultura diversa anche di rapporto storia, con le armi, completamente storia diversa. Cultura diversa, però certo quando si cita il Far West poi uno pensa subito agli Stati Uniti. Allora, eccoci qui, caro Oscar Giannino, c'è l'avvocato Giulia Buongiorno con noi. Buongiorno, avvocato penalista, ex parlamentare, benvenuta. Grazie dell'invito. Allora, avvocato, buongiorno. La legge sulla legittima difesa, lei ha posto all'attenzione il fatto che è una legge forse che tutela poco le persone che vengono aggredite, vediamo, mettiamole così, le persone che stanno nella loro casa tranquilla e rischiano di finire nei guai? Sì, decisamente, anche se c'è stato sicuramente un miglioramento di questa legge recentemente nel 2006, però il problema attualmente esiste. Esiste perché chi viene aggredito nel cuore della notte di solito finisce in una bara oppure finisce sul banco degli imputati, perché se si difende deve poi dimostrare 2 cose, e cioè l'imminenza del pericolo e l'inevitabilità di quello che è successo. In definitiva deve dimostrare che tra tutte le armi che aveva a casa ha scelto quell'oggetto che era un oggetto effettivamente idoneo, ma che non superava il tipo di aggressione che stava ponendo in essere il ladro. Io dico invece che chi entra a casa altrui per rubare o per violentare si deve accollare le conseguenze, cioè che esiste un diritto alla reazione. Ma in questo caso, avvocato, sono Oscar Giannino, buongiorno, ma quello che verrebbe buongiorno. Meno è quello che oggi si postula, cioè il fatto che avvenga in un nanosecondo da parte dell'aggredito una specie di valutazione della proporzionalità sia dello strumento che usa sia del modo in cui lo usa nei confronti dell'ombra o di chi vede a casa sua, eccetera eccetera. Quindi questa proporzionalità, che è un po' una prova diabolica, mi pare di capire, nella sua concezione, verrebbe meno, perché la questione verrebbe definita dal fatto: no, tu entri in un posto dove non stai, quel posto è mio, è una specie di recinto sacro, e quindi a quel punto non è che mi si può chiedere la prova diabolica. In un secondo, hai capito che cosa afferrare e come usarlo per neutralizzare? È questo il punto? Come sempre mi sembra che lei colga il cuore del problema. Bisogna invertire l'onere della prova. E cioè una sorta di presunzione che la difesa sia legittima quando è fatta a casa propria, anche perché poco fa ho sentito l'ultima frazione di un'intervista, effettivamente è difficile la valutazione, come dice lei, in un nanosecondo. Poi dobbiamo tenere conto del nuovo tipo di famiglie che ci sono. Probabilmente una vecchia legittima difesa che diceva state attenti prima di prendere un'arma prendeva in considerazione quelle famiglie in cui c'erano 10 persone a casa. Oggi spesso le famiglie sono fatte da un single, magari una donna con un bambino, oppure da anziani. C'è anche quindi un problema, secondo me, legato al nuovo tipo di famiglia. E quello che io propongo è di guardare alla Germania o alla Francia, dove effettivamente sono previsti modelli diversi. In un caso in Germania si dice che qualora il soggetto usi un'arma come legittima difesa in stato di turbamento o comunque colto da emozione, la sua, il suo comportamento sarà sempre scriminato proprio per l'emozione. In Francia invece si fa una sorta di inversione dell'onere di prova, e cioè se effettivamente una persona entra a casa mia, io gli sparo. Poi a quel punto si presume che io abbia sparato legittimamente, fermo restando che in un'aula di giustizia si possa anche provare il contrario. Certo, e invece qua dice funziona in Italia spesso che la persona si trova sul banco degli imputati. Però, avvocato, le faccio due domande veloci sulla questione, sul caso. Intanto, l'atteggiamento del signor Sicignano, lei ha per caso visto qualche trasmissione televisiva? Insomma, ha visto accusare i politici idioti, trovare anche in un modo abbastanza sprezzante nei confronti degli interlocutori, insulti? Da avvocato, lei le consiglierebbe a questo signore di andare in TV e comportarsi così oppure no? Allora, io comprendo che il tipo di accusa che gli hanno fatto, che l'omicidio volontario, è un'accusa di una gravità straordinaria, perché come sapete tutti si tratta proprio di una sorta di accusa di omicidio doloso. Volontario vuol dire proprio fatto dolosamente. Credo che stia cercando in tutti i modi di spiegare che era preso dall'emozione. Dov'è che io vedo che bisogna invece evitare di travalicare dei limiti? Quando poi, ecco, sconfiniamo nel fare diventare questi gesti come atti eroici, ecco, certo. Questa parte consiglierei di evitarla, esatto. Altrimenti sa cosa? Ci indeboliamo come tesi. Allora ha ragione chi parla del Far West, se io sono un eroe. Però guardi che qualcuno. È proprio la considerazione che facevamo con Oscar Giannino, sì. Era la mia seconda considerazione. Guardi, io non lo so se il 75%, l'80%, i nostri ascoltatori, i messaggi, caro Oscar, tutti dicono ha fatto bene, doveva ammazzarne tre, doveva sparare anche agli altri. Cioè l'atteggiamento del popolo è questo, avvocato. Allora, ovviamente l'atteggiamento del popolo non deve poi necessariamente guidare il legislatore, perché qua è un legislatore che tiene conto solo delle emozioni. Io da un lato capisco una cosa, che c'è questo famoso, sembra che non ci sia, ma è vero, che c'è un certo senso di insicurezza generale, c'è. Il problema però va esaminato secondo me un po' più in là, e cioè quando ci sono in Italia dei processi che durano 8 anni, e quando arriva alla fine una sentenza definitiva e di solito le persone non fanno galera, è chiaro che nessuno ha paura, secondo me, del sistema italiano. E questo è un discorso. Allora, se uno vuole affrontare il tema sicurezza deve partire dai processi penali. Certo. Nessuno parla di questo, sa perché? Perché è un argomento noioso, perché dovremmo parlare della cosa più noiosa del mondo, che sono le notifiche. Ti immagini parlare in TV e radio di notifiche? Sì. Non ha senso. Sì, allora, si viene interrotti dopo 3 secondi. O la gente cambia canale, capisce? Che... E quindi è meglio non parlarne, però il problema è quello, no? E quindi, però no, a me mi dicono sempre, mi raccomando non parli delle notifiche, sì, per esatto. Carità, non parliamo delle notifiche, carità. Ok. Allora, premesso che non si può parlare di problemi tecnici, ovviamente la gente non sa qual è il vero problema e qual è la soluzione. Allora io credo che il politico di valore è quello che cerca di spiegare quali sono i problemi e cerca anche di non farsi trascinare dalla furia. Detto questo, nel caso specifico, io mi rendo conto della rabbia che ci può essere dentro questo signore quando si difende così, perché sta rischiando un processo di una gravità estrema. Quanto rischia, giusto per capire, l'omicidio volontario, ce lo dica da... Guardi, lì poi dipende dalla pena che si può infliggere, 20 anni, 25 anni, se stiamo parlando. Beh, questo di... sarebbe no, sarebbe incredibile, a seconda delle aggravanti, le pene edittali, queste sono per l'omicidio volontario. No, io le stavo dicendo, allora io stavo facendo gli esempi delle pene che poi vengono combinate in caso di omicidio doloso, esatto. Però è chiaro che io spero che nel caso di specie, come ho letto peraltro, si sia fatto questo tipo di contestazione, perché nel codice di procedura si prevede che se la contestazione è particolarmente grave si possono fare degli atti di indagine molto invasivi. Allora a volte si fa una contestazione più grave per fare delle indagini con degli strumenti che non sono, spero che sia questo. Però ecco, se mi dice cosa penso di un processo per omicidio volontario, onestamente sono molto perplessa. cioè, non esiste, ecco. Posso chiedere all'avvocato una domanda su questa polemica di questi giorni tra l'ENM, l'Associazione Nazionale Magistrati e il governo? Magistrati e politica. Perché insomma, voglio dire, a me sembra che sia molto centrata, perché loro hanno paura che si arrivi davvero alla riforma del CSM. Non credo che il governo sia in grado di farla davvero. Sabino Cassese ieri ha scritto un articolo, secondo me meraviglioso, grande galantuomo, grande giurista, ex membro della Corte Costituzionale, dicendo le proposte di autoriforma sono ridicole. Perché io ricordo che chi ci ascolta, anche se forse molti di voi rimarranno stupiti, che nel nostro ordinamento si può ancora continuare a esercitare la funzione giurisdizionale e a essere presidente di regione o sindaco, purché lo si faccia in due circoscrizioni diverse. Vero è che chi lo fa preferisce l'aspettativa, però poi torna giudice come se non avesse fatto politica, sì. E CSM ancora una volta dorme. Posso chiedere all'avvocato Buongiorno cosa pensa di queste polemiche? Allora, io penso tutto il male possibile di quello che si sta facendo in materia di giustizia con questo governo, perché è corretta quella frase, che in realtà è uno slogan, che hanno detto all'ANM quando dicevano si pensa più alle intercettazioni che alla corruzione. Questo è vero, nel senso che alla fin fine Cantone, che è un simbolo, è stato messo a questa anticorruzione, però di fatto quello che si doveva fare, e cioè, come le dicevo prima, processi più veloci piuttosto che una riforma seria, non è stata fatta. Ancora una volta si è molto pensato all'immagine e non alla sostanza. Poi quando si dice alle intercettazioni, nel senso, si pensa a cose piccole, lasciamo perdere poi qual è la norma. Detto questo, anch'io sono d'accordo che le proposte che ha fatto il CSM, ho letto anch'io quell'articolo e l'ho condiviso, sono veramente molto, molto timide. Io dico sempre questo ai magistrati, si può stare dalla parte dei magistrati purché i magistrati da parte loro comprendano che il loro ruolo è un ruolo di tale potere che deve necessariamente poi avere dei limiti nella responsabilità, in particolare nel rapporto con la politica. Finché non ci sarà una regolamentazione ben precisa, è chiaro che saranno sempre vulnerabili. Io credo che le polemiche che ci sono state, quindi, in parte siano giustificate, perché il governo veramente non sta facendo niente, niente. Ricordiamoci che siamo al solito problema, che ad esempio quando ci sono processi finalmente diventati definitivi si fanno uscire dal carcere le persone con lo svuota carceri, che è la cosa più folle, sì, del mondo. Quindi è una politica in materia di giustizia che non condivido. Dall'altra parte non è che mi sembra che la magistratura stia facendo delle proposte mirabolanti. Avvocato, vuole sentire con noi un ascoltatore che ci chiama, certo. Enrico dalla provincia di Milano, che mi dicono dalla redazione ha subito una rapina in casa con sequestro di persona. Vero così, Enrico? Buongiorno Milan, sì. Giannino, buongiorno. Avvocato, buongiorno. Sì, io nel 2010 ho subito al quarto piano di una palazzina alle 6:05 del mattino. Tre persone mi sono entrate in casa, hanno bloccato la mia compagna a letto e io ero in bagno. Due mi sono saltati addosso, oltre che avermi menato e io ho tentato una minima reazione, mi sono trovato un cacciavite puntato alla gola di 35 centimetri e mi è stato detto o la pianti qui o finisce male. Allora ho dovuto far aprire la cassaforte perché non avevo nemmeno la forza di aprire la cassaforte, si sono portati via un bottino abbastanza importante, poi sono arrivati carabinieri, polizia e via dicendo, e alla fine mi hanno detto lei si ritenga fortunato perché generalmente quando prendono bottini di questo genere non vogliono lasciare tracce. E quindi ora, fortunato di essere vivo, insomma. Esatto. Ma io mi domando e dico, quei signori che si presentano in televisione e raccontano le loro storie, poi c'hanno giornalisti che invece sono contrari alle reazioni di uno e dice non si mettono nei suoi panni, cioè non capiscono perché Milano, abbia pazienza, io non ho avuto il tempo di pensare, ma chiaro, perché nel momento in cui ho sentito il rumore di gente in casa non ho avuto il tempo di pensare, me le sono trovate addosso. Allora, se io avessi avuto una reazione differente ovviamente questi mi avrebbero cazzato il cacciavite in pancia come minimo. Enrico, posso chiederle una cosa? Sì. Siccome ci è passato, avesse avuto un'arma regolarmente denunciata? Aspetta. Lei dice: io non ho avuto il tempo di valutare. Quindi, una modifica di norma come quella che ci ha spiegato l'avvocato Buongiorno, che appunto parte dal presupposto che bisogna avere una scriminatura favorevole a chi in quel momento non è nelle circostanze di poter valutare. Se ce l'hai ed è un'arma legale, in quelle condizioni la usa. Lei pensa, essendoci passato, che sarebbe giusta questa cosa o no? Allora, Io, Giannino, tra parentesi, ci siamo già visti qualche volta durante la messa di Capodanno, da qualche, di Natale, da qualche parte. Comunque, a parte questo, io ho avuto il porto d'armi, perché già nel 1985 ho avuto un altro problema del genere e non è successo niente. Sì, devo dire che oggi, ripensandoci, se avessi avuto un'arma portata di mano e non sotto il cuscino, ma da qualche parte, ribadisco, se avessi avuto il tempo, avrei sparato alla cieca, perché io non so non sparare. È in grado uno di valutazione, ma non so sparare, avrei sparato alla cieca, certamente. E poi quello che sarebbe successo sarebbe successo, ma prima la mia vita e quella dei miei familiari, poi il resto si vedrà. Enrico, no, si fermi qui, perché abbiamo proprio un minuto per chiudere. E avvocato, buongiorno, la ringraziamo, ma insomma mi sembra che sia stato chiaro, Enrico, un po' a far capire che le modifiche che lei propone sono modifiche che poi, vissute anche sulla propria pelle per chi c'è passato come esperienza, sono modifiche sensate. Intanto la ringraziamo per essere stata con noi. C'è chi ci scrive che Ignazio Marino fa legittima difesa. Visto quella di Marino è legittima difesa. Orfini della parte del ladro notturno che entra in Campidoglio. Orfini, però dai, resisti Marino, che così, ma molti ce lo scrivono. No, Marino, resisti, che rideremo molto. A quel punto mettiamo gli andacci, facciamo il patto, mettiamolo per vedere l'effetto che fa. Caro Oscar, ci fermiamo. A domani.